Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se miliardi non bastano, ma portiamole a casa, perché ci sono delle misure che servono di fatto a cambiare la Fornero, che iniquamente faceva andare in pensione tutti alla stessa età. Questa è la sintesi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fatta dal leader della UIL Barbagallo dopo l'incontro di oggi tra governo e sindacati sul tema caldissimo e sempre d'attualità delle pensioni. E quindi c'è stato questo primo accordo, ne parleremo più nel dettaglio qui a Effetto Notte naturalmente, così come torna il tema, le polemiche diciamo soprattutto sui vaccini, dopo che oggi pomeriggio era emersa la notizia di una prossima proiezione il 4 ottobre in Senato di un film che viene dall'America contro i vaccini. È salita la tensione tutto il giorno finché a un certo punto il Senato ha annullato questa proiezione. Però sentiremo sempre su questo tema il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi qui a Effetto Notte più tardi. Ci sono tanti temi anche oggi, per esempio sentirete poi questa notizia dalla Svezia che ci ripensa sul servizio militare obbligatorio e decide che dal 2018 ritornerà la leva obbligatoria. Chissà cosa succederebbe se avvenisse in Italia. Per i vostri interventi, per interagire qui a Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Prima, come appuntamento, lo sapete, il riassunto della giornata. Pensioni, raggiunto un primo accordo tra governo e sindacati, misure per 6 miliardi dalla quattordicesima alla no tax area e per i lavoratori disagiati possibile uscita con 41 anni di contributi. Addio Shimon Peres, l'ex presidente israeliano, Nobel per la pace, si è spento a 93 anni, il mondo gli rende omaggio. Vaccini, si riaccende la polemica per un documentario contro le vaccinazioni, annullata la proiezione prevista in Senato. Marò, la Corte indiana autorizza la Torre a restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato. Soddisfatta la Farnesina. Siria, il segretario di Stato americano Kerry minaccia la Russia. Stop ai rapporti con Mosca se non interrompe i bombardamenti. Stati Uniti, l'ONU chiede risarcimenti per i neri uccisi dalla polizia. Sono reminiscenza, dice l'ONU, dei linciaggi di afroamericani del passato. Intanto un altro afroamericano è stato ucciso in California, era disarmato. Migranti, l'Unione Europea chiede all'Italia di accelerare sulla creazione di hotspot. I picchi di arrivi, dice Bruxelles, dimostrano che l'attuale capacità non è sufficiente. L'omicidio di Yara, nelle motivazioni della sentenza di ergastolo per Bossetti, i giudici scrivono l'ha uccisa con violenza e sadismo per le avance respinte e il DNA è assolutamente affidabile. Servizio militare, la Svezia ci ripensa, dal 2018 torna la leva obbligatoria, soppressa nel 2010, chiamati alle armi i giovani nati dopo il 1999. Calcio, dopo la Juventus vittoriosa di ieri, in campo c'è il Napoli. Partiamo quindi dall'incontro tra governo e sindacati sulle pensioni, che sono arrivati oggi a un primo accordo in materia di previdenza. L'esecutivo mette in campo 6 miliardi di risorse da spendere in 3 anni, di cui molto probabilmente 1,5 miliardi per il 2017. Le modalità e la ripartizione saranno poi definite in vista della prossima legge di bilancio. Nel cantiere della manovra entreranno di sicuro l'aumento delle quattordicesime e un allargamento della platea, un aumento poi delle detrazioni di imposte per tutti i pensionati over 74 al fine di un adeguamento della no tax area a quella dei lavoratori dipendenti e la possibilità di un cumulo gratuito sui contributi versati in gestioni diverse. Una corsia preferenziale anche per i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni e usuranti, e un anticipo pensionistico per una maggiore flessibilità in uscita. Tutto per superare alcuni paletti della tanto contestata legge Fornero. CGIL, CISL e UIL, pur apprezzando il buon lavoro svolto, hanno voluto rimarcare la necessità comunque di fare ancora molto. Anche il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha valutato positivamente il confronto, chiedendo tuttavia al governo di puntare sulla competitività. Torneremo comunque, vi dicevo, a parlarne più nel dettaglio dopo. Tra l'altro vi ricordo che domani sul Sole 24 Ore tutte le novità sulle pensioni ci saranno in anticipo e la guida con i calcoli caso per caso, le simulazioni categoria per categoria, domani con il Sole 24 Ore. Intanto va avanti il negoziato con l'Europa sulla flessibilità. se le misure sulle pensioni non dipendono dalla trattativa con Bruxelles, come dice Matteo Renzi, la partita con l'Europa è però ancora tutta da giocare. Sul DEF appena approvato, la Commissione resta vaga. Aspetteremo che l'Italia invii la legge di bilancio, poi valuteremo, dice un portavoce. Il nodo è lo scostamento dal target deficit PIL, viste anche le circostanze eccezionali, ovvero terremoto e migrazione. Le autorità europee sono sul chi va là. Un patto di stabilità non può diventare di flessibilità, ripete da giorni il presidente Juncker. L'Italia ha già speso 19 miliardi in più. Renzi però guarda anche a marzo 2017, l'anniversario dei trattati europei. Bisogna fare investimenti, dobbiamo presentare delle proposte, l'Italia ne presenterà tre, una sulla crescita, spiega il premier. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le misure della BCE a partire dal quantitative easing hanno fatto risparmiare circa 28 miliardi di euro solo nel 2015 sotto forma di minori tassi di interesse alla Germania. Lo ha detto il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi parlando al Parlamento tedesco. Ma è arrivata la dura replica della Commissione, del capo della Commissione Affari Europei del Bundestag del Parlamento, che ha detto: i bassi tassi di interesse danneggiano le banche tedesche e sono un salvataggio occulto per paesi che non fanno riforme strutturali. E adesso parliamo naturalmente della scomparsa dell'ex presidente israeliano Shimon Peres, aveva 93 anni. Il percorso di ciascuno di noi è frutto anche di coincidenze e quello di Shimon Peres non fa eccezione. Fu facendo autostop che incontrò David Ben-Gurion, fondatore e primo ministro di Israele, polacco come lui che dall'Europa era arrivato in Palestina a 11 anni. Così entrò in politica, dove negli anni ha scalato tutte le posizioni: parlamentare, ministro, primo ministro, presidente, inanellando però anche diverse sconfitte nella sua transizione dal falco, che era quando aveva approvato i primi insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, alla colomba che con Rabin e Arafat vinse il premio Nobel per la pace per avere portato Israele e l'OLP al riconoscimento reciproco. There was a time. C'è stato un tempo in cui si combatteva per mancanza di alternative, disse ricevendo il premio. Oggi è la pace l'unica opzione. Era il 1994, la pace in Medio Oriente non c'è ancora, ma lui, Peres, fino allo scorso agosto ha creduto nella pace. Non capisco perché la gente sia pessimista. Fu probabilmente più amato all'estero che in patria, come Gorbaciov, con cui nel 93 festeggiò l'80° compleanno insieme a molti altri amici ed estimatori. Da Bill Clinton, che si esibì con un coro di ragazzi israeliani ed arabi, a Woody Allen, che gli mandò le congratulazioni. Da un cattivo ebreo, scrisse, a un grande ebreo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora spostiamoci sulla nuova polemica che riguarda i vaccini. Si riaccende il dibattito, la polemica per un documentario contro le vaccinazioni. La proiezione di questo documentario, che si intitola Vaccini dall'insabbiamento alla catastrofe, era prevista per il 4 ottobre in Senato e ha scatenato l'ira della comunità scientifica italiana e internazionale. L'iniziativa è stata dell'ex senatore grillino Pepe, ora con Gal di Tremonti, e dopo una concitata giornata segnata dalla estrema contrarietà della ministra Lorenzin e dall'intervento del presidente Grasso è stata annullata. Però ritorneremo su questo dibattito più tardi con Effetto Notte, con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi, proprio per capire insomma di questi dubbi, di questa polemica sui vaccini. Sapete che la comunità internazionale, la maggior parte della comunità scientifica internazionale ritiene i vaccini assolutamente sicuri e necessari. Parliamo anche dei Marò, c'è questa novità perché il fuciliere Massimiliano Latorre resterà in Italia fino alla fine dell'arbitrato internazionale all'AIA, sostanzialmente con le stesse condizioni già disposte per Salvatore Girone. Lo ha deciso oggi la Corte Suprema di New Delhi. Soddisfazione da parte del Ministero degli Esteri italiano. Si tratta di un passaggio importante, viene sottolineato, che riconosce l'impegno del governo italiano. E parliamo di Siria. Le truppe lealiste si stanno ammassando dentro e fuori Aleppo per condurre una offensiva di terra, la più massiccia dalla fine della tregua la settimana scorsa. E intanto il segretario di Stato americano Kerry minaccia di tagliare tutti i contatti con la Russia sulla Siria a meno che i bombardamenti di Aleppo non finiscano. Adesso ancora all'estero, il Senato americano ha respinto il veto del presidente Barack Obama sulla legge che prevede la possibilità di fare causa all'Arabia Saudita da parte delle famiglie delle vittime dell'11 settembre 2001, cosa che invece Hillary Clinton ha detto di sostenere. Barack Obama aveva posto il veto, ma il Senato americano ha respinto questo veto. Ora tocca comunque alla Camera, potrebbe essere la prima volta in 8 anni che un veto di Obama viene respinto dal Congresso. C'è l'ONU che chiede agli Stati Uniti risarcimenti per i neri uccisi dalla polizia. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle relazioni tra americani ed ex schiavi africani ritiene che le recenti uccisioni di persone di colore da parte della polizia negli Stati Uniti siano una reminiscenza dei linciaggi del XIX e XX secolo e chiede un risarcimento, dicendo l'impunità per la violenza di Stato ha portato all'attuale crisi dei diritti umani e deve essere affrontata con urgenza. E intanto un altro afroamericano è stato ucciso in California ed era disarmato. Migranti, nel documento sui ricollocamenti e reinsediamenti della Commissione europea si legge, a proposito dell'Italia, i picchi negli arrivi degli ultimi mesi in Italia hanno dimostrato che l'attuale capacità di 1.600 posti nei 4 hotspot operativi, cioè Pozzallo, Lampedusa, Trapani e Taranto, non è sufficiente. L'Italia, dice Bruxelles, dovrebbe accelerare l'apertura degli hotspot aggiuntivi per già annunciati. E siamo alla politica, arriveranno in settimana i nomi dei nuovi assessori al bilancio e alle partecipate di Roma, lo ha detto la sindaca Virginia Raggi. In attesa di completare la sua giunta, Virginia Raggi assume l'interim al bilancio e alle partecipate. I nomi degli assessori mancanti arriveranno in settimana, assicura comunque la sindaca pentastellata dopo l'ennesimo passo indietro, quello del magistrato contabile Salvatore Tutino, che finito sotto attacco da parte dello stesso Movimento 5 Stelle ieri ha rinunciato al bilancio. So che siete interessati agli assessori, in settimana arriveranno i nomi, ho spacchettato le deleghe come da mia idea iniziale. La sindaca aggiunge poi che le nomine non terranno conto delle quote rosa, che a suo giudizio nascono per ridurre la discriminazione ma offendono le donne e le confinano in una visione anacronistica. Le opposizioni intanto denunciano che per 20 giorni il bilancio è rimasto senza un titolare, perché la nomina di Raffaele De Dominicis, subito saltata, è stata formalmente revocata soltanto ieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo dell'omicidio di Yara, perché sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo inflitta a Massimo Bossetti. La prova del DNA è assolutamente affidabile e lui ha compiuto un omicidio di inaudita gravità. Scrivono 158 pagine i giudici della Corte d'Assise di Bergamo per spiegare perché non poteva essere che l'ergastolo la condanna per Massimo Bossetti, considerato colpevole dell'uccisione di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate in una sera di novembre di 6 anni fa. Un delitto maturato in un contesto di avanza sessuali verosimilmente respinte, ricostruiscono i giudici, che innanzitutto vogliono allontanare ogni perplessità sulla prova regina di questo processo, quelle tracce di DNA trovate sugli indumenti della vittima. Cita un elevato numero di marcatori e una pluralità di analisi la Corte per assicurare che il profilo genetico è del muratore di Mapello, dato privo di qualsiasi ambiguità o lettura alternativa. Bossetti, scrivono, infierì a lungo sul corpo di Yara per poi lasciarla ad agonizzare in un campo isolato. Una crudeltà che, a detta dei giudici, svela l'animo malvagio dell'imputato, che agì proprio per fare del male. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece una bella storia, di amore almeno, tra due suore. Questa mattina Pinerolo è stata protagonista del matrimonio tra due ex suore, Isabel e Federica, nella cittadina che in provincia di Torino si è celebrata l'unione di queste due ex suore francescane che si sono conosciute durante un viaggio pastorale e hanno scoperto di amarsi. Una delle ex religiose ha trascorso la vita nelle missioni del mondo, l'altra si è sempre dedicata ai poveri e ai tossicodipendenti. Dio vuole le persone felici che vivano l'amore alla luce del sole, dice Isabel. Chiediamo alla nostra chiesa di accogliere tutte le persone che si amano, dice Federica, e l'unione civile è stata celebrata dal sindaco del Movimento 5 Stelle Luca Salvai in municipio. Per il meteo ci sono buone notizie, prove d'autunno, caldo anomalo almeno fino a domani ci sarà quando raggiungerà il suo picco il caldo, e poi purtroppo un ritorno del maltempo per il fine settimana, tanto per cambiare, il fine settimana questa strana coincidenza. E poi il servizio militare, la Svezia ci ripensa, ha annunciato oggi il ripristino del servizio militare obbligatorio a partire dal 2018, 8 anni dopo la sua soppressione. Ad essere chiamate alle armi saranno tutti i giovani nati dopo il 1999. La decisione dovrà essere approvata in Parlamento, ma il via libera dell'Assemblea è assolutamente certo. Anche prima dello sport, questa notizia particolare che viene dal Brasile, una tartaruga che si chiama Manuela, persa nel 1982, è stata ritrovata viva in una vecchia soffitta, sopravvissuta 34 anni, pensate, mangiando termiti, quelle che si cibano di mobili vecchi. Per chiudere, Dario Ricci invece si sta cibando di gol il Napoli in Champions. Ciao Dario. Oddio, questa notizia della tartaruga, scusa, ma mi ha fatto troppo ridere, cara. Beh, non si è mangiato il gol Mare Kamsic, perché siamo al 31esimo di gioco al San Paolo e Napoli in vantaggio per 1-0 sul Benfica. Al 20esimo il calcio d'angolo di Goulam, il colpo di testa sul primo palo di Hamsik che batte imparabilmente Julio Cesar, lo ricorderete, l'ex portiere dell'Inter del triplete, un Napoli che però aveva rischiato in precedenza in almeno due occasioni, soprattutto sulla seconda, bravo Reina a sventare i pericoli nell'area partenopea. Sempre nel gruppo del Napoli il Besiktas è in vantaggio per 1-0 sulla Dinamo Kiev. Nelle altre gare Arsenal 2 Basilea 0, 1-1 tra Rostov e PSV, 2-2 tra Celtic e Manchester City, e il Ludogorets è in vantaggio per 1-0, pensate, sul Paris Saint Germain. Grazie Dario Ricci, quindi non sono tartarughe per il momento i giocatori del Napoli, 1-0 ci diceva. E poi prima di lasciarci per le abilità, brevemente i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp e SMS. Ilaria scrive: ma che succede al Ministero della Salute a livello di comunicazione? Sono al delirio, un autogol dopo l'altro, che stiano sperimentando gli effetti di nuove sostanze psicotrope, anche se in questo caso era stata una cosa organizzata in Senato, questa del documentario antivaccini. Certo, forse ci doveva essere anche l'interesse del Ministero, visto che l'oggetto era appunto un argomento riguardante la salute. Poi Francesca da Udine scrive: magari ripristinassero anche qui la leva obbligatoria come in Svezia, dice, anche per le donne. E poi Doris da Trieste: questo clima di irrazionalità che dura da anni in campi diversi, specie in quello medico, è estremamente pericoloso e va combattuto con energia. Doris, sempre a proposito di questo film documentario di cui parleremo dopo. Intanto voi continuate con i vostri messaggi, ci sentiamo un momento. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie ve le ho raccontate con la sintesi della giornata, Roberta Giordano sempre con voi. Arriva anche questo aggiornamento su una sparatoria che c'è stata poco fa, almeno così risulta, negli Stati Uniti, in una scuola elementare. Sono stati feriti due bambini e un insegnante e non c'è nessun altro ricercato. Sarebbe stata arrestata una persona, vediamo di chi si tratta, l'arresto di un teenager. Tutti gli altri alunni dell'istituto sono in salvo, ha aggiunto la polizia spiegando che dopo l'arresto di un teenager non ci sia nessun'altra persona ricercata. Questo è l'aggiornamento. Tra poco vi ricordo anche le altre notizie principali, se non avete acceso la radio puntualmente alle 21, e poi i vostri messaggi. Ancora vedo qualcosa sul servizio militare obbligatorio che tornerà in Svezia. Qualcuno dice, se ci ripensasse magari l'Italia. Dice per esempio Thomas sulla pagina Facebook di Effetto Notte: vista la noia, con la ilunga come naia, che passavano la maggior parte dei ragazzi italiani, dice, un mese di car, 6 mesi di nonni che te ne facevano di tutti i colori, 5 mesi che ne facevi di tutti i colori ai più giovani. Questo è il ricordo e la sintesi di quello che era servizio militare obbligatorio in Italia. E poi invece sui vaccini, dice Antonio, ogni tanto qualcuno usa logica e buonsenso, la fantascienza la si proietta al cinema. Ne parleremo più tardi qui a Effetto Notte. Intanto però vi ricordo le notizie più importanti. Un primo accordo governo sindacati sulle pensioni, 6 miliardi in 3 anni, 14esima ai redditi da 1.000 fino a 1.000 euro e poi precoci via con 41 anni di contributi. Renzi, referendum non contro il governo, battibecco con D'Alema, e poi il vertice ci sarà tra Berlusconi, Meloni e Salvini per votare no al referendum. Addio a Shimon Peres, il falco che diventò colomba di Israele, da kibbutz a controversi accordi di Oslo, divenne l'icona del paese. Draghi che bacchetta la Germania, il presidente della Banca Centrale Europea, dice, col quantitative easing avete risparmiato 28 miliardi. E poi il film antivaccini in Senato, indignazione, blocca l'iniziativa, la proiezione era prevista per il 4 ottobre a Palazzo Madama. Per i Marò la buona notizia che la Corte indiana autorizza anche la Torre a restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato. E poi Iara, violenze di Bossetti per avance sessuali respinte, sono le motivazioni che sono state depositate per la sentenza di ergastolo a Bossetti dello scorso giugno. We'll be right back. 6 miliardi non bastano, ma portiamole a casa, perché ci sono delle misure che servono di fatto a cambiare la Fornero, che iniquamente faceva andare in pensione tutti alla stessa età. Quindi vi avevo fatto sentire anche all'inizio questa sintesi del leader della UIL Barbagallo, che dice insomma c'è ancora molto da fare, però intanto questi 6 miliardi non sono molti, ma portiamoceli a casa, perché oggi c'è stato questo atteso incontro tra governo e sindacati appunto sulle pensioni, e sembra che ci siano delle buone notizie almeno per questo primo accordo, perché si prevedono misure per 6 miliardi per interventi sui precoci, perché dice un ascoltatore per i precoci niente, su poste no, c'è qualcosa anche per i precoci, cioè per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima di 18 anni, poi c'è l'estensione, l'aumento della 14ª per i redditi più bassi, per i lavori disagiati possibile uscita con 41 anni di contributi, per esempio la leader della CGIL Susanna Camusso ha detto per la prima volta si tornano a mettere delle risorse. Però sentiamo prima il ministro del lavoro Poletti che cosa ha detto a fine di questo incontro. Questo verbale rappresenta elementi di condivisione ma anche diversità di opinioni, quindi abbiamo fotografato, diciamo così, le posizioni che sono state espresse nel corso di questo lavoro, e credo che sia stato un metodo di lavoro, di confronto utile e importante. E poi sempre Poletti che spiega quanti miliardi verranno stanziati in 3 anni. Abbiamo rappresentato l'intenzione del governo di rendere disponibili per questi interventi 6 miliardi in 3 anni, e poiché prevediamo interventi di tipo strutturale, e cioè continueranno a sviluppare il loro effetto nell'arco del tempo, avremo una distribuzione dell'impegno di queste risorse che parte un po' più basso e cresce, perché mano a mano che si stabilizzano e si completa l'utilizzazione al 100% di queste misure, il fabbisogno finanziario diventa più alto. E allora, dicevo, avevo citato la leader della CGIL Camusso, sentiamolo in questo passaggio. 6 miliardi sono quanto il governo ha deciso e determinato di mettere nella legge di bilancio, è importante intanto averli vincolati a questa materia, poi come vedete dalla sintesi del confronto che è stata fatta oggi, bisogna determinare platee e cifre, e questo ci permetterà di ragionare meglio su come distribuire 6 miliardi nei 3 anni. Quindi abbiamo sentito all'inizio Barbagallo, poi la leader della CGIL Camusso, sentiamo anche la leader della CISL Furlan. Forse il governo ha iniziato a riflettere che sui temi del lavoro, della crescita, della previdenza, avere confronti con le parti sociali, avere confronti col sindacato, fa fare scelte migliori, più eque e più giuste. Allora chiedo al vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula. Ciao Chicco, buonasera. Buonasera, buonasera. Bicchiere mezzo pieno? Ma sì, bicchiere mezzo, non lo so, guarda, lo forse, sai, forse mezzo vuoto, non lo so. No, però non voglio essere pessimista. No, no, dai, mezzo quello pieno. Che ci mancherebbe. No, guarda, l'ha detto Susanna Camusso, l'abbiamo sentita adesso. Insomma, abbiamo una cornice importante, per la prima volta abbiamo capito davvero quali sono i temi sul tappeto, per la prima volta abbiamo insomma la certezza complessiva delle risorse che sono in gioco, 6 miliardi in un triennio, se poi ho capito bene neanche spesi diciamo 2-2-2, ma con un meccanismo che andrà diciamo a stanziare di più per la parte finale del triennio, quindi immagino il secondo e il terzo anno, non è una cifra enorme se pensiamo alla platea di riferimento, cioè insomma, i pensionati sono tanti, sono milioni e milioni di persone, sono 15 o 20 milioni o 18 milioni di persone, quindi insomma pensare, d'altra parte in qualche modo adesso non voglio poi frenare dall'altra parte, ma un po' lo sapevamo, cioè la riforma Monti-Fornero che tutti criticano è una riforma che ha garantito a questo paese di risparmiare 88 miliardi in 10 anni, poi sono diventati un po' meno perché una parte di questi 88, se ricordo bene, circa 8 sono stati destinati diciamo a sanare quelle posizioni che vanno sotto il nome di esodati, però insomma 80 miliardi in 10 anni, adesso ne vengono stanziati 6 in 3 anni, peraltro una parte secondo me consistente di questi 6 miliardi andranno saranno destinati a una cosa importante, cioè il diciamo potenziamento delle pensioni più basse attraverso due meccanismi. Quali sono quelle più basse, lo ricordiamo? Guarda, sono pensioni che per il fisco valgono fino a 7.750 euro l'anno, quindi parliamo di pensioni da 600 euro. Sì. Per queste categorie qui viene leggermente alzata l'area di esenzione fiscale, viene uniformata a oltre 8.000 euro, adesso è 7.750 per alcuni, 8.100 per altre, quindi viene uniformata. E poi viene fatto un intervento su quella che viene chiamata la quattordicesima, cioè diciamo un riconoscimento di una mensilità che in realtà non è una mensilità ma un pochino meno, tra 350 e 500 euro in più all'anno, che vengono dati appunto come se fosse una quattordicesima. E questo meccanismo verrà, diciamo, che attualmente riguarda 1.200.000 persone, verrà dato ad altri 2 milioni di persone. Quindi, senti, su questo, sulla quattordicesima, sentiamo il sottosegretario Nannicini, visto che hai citato la quattordicesima, sentiamo. Fino a una volta e mezzo il minimo ci sarà un aumento della somma esistente per i nuovi, tra uno e mezzo il minimo e due volte il minimo ci sarà la vecchia quattordicesima, la cifra esistente. Senti, Chico Padula, invece per i precoci, che vari chiedono per i precoci, quali sono interventi almeno così Ma ipotizzati? Ma dunque, guarda, mi sembra cioè, per di coloro aver che capito... hanno iniziato prima di 18 anni, no? Sì, sì, allora, hanno, diciamo, qui se ne era discusso molto nei giorni scorsi, perché l'intervento che si auspicava era un intervento, diciamo, importante, poi si sono resi conto che era molto costoso. La soluzione che mi sembra di capire abbiano trovato è quella di, diciamo, riconoscere uno sconto sugli anni di contributi necessari per andare in pensione a tutti quelli che hanno 12 mesi di contributi fatti prima di aver compiuto i 19 anni. Quindi chi ha lavorato prima di 19 anni e prima dei 19 anni ha avuto 12 mesi di contributi anche non continuativi potrà andare con questa pensione anticipata speciale a 41 anni di anzianità contributiva e non a 42. Tradotto, a me non sembra un gran beneficio, insomma, ecco, se posso essere sincero, diciamo, se puoi essere sincero. Senti, tra l'altro sull'APE invece, la famosa APE, cioè l'anticipo, certo, pensionistico, sì. Mi pare che sia rimandata a una seconda fase la definizione, così come anche per i giovani con percorso professionale diciamo precario, come possiamo chiamare, discontinuo. Sì, dunque è giustissimo. Per l'APE, diciamo, via via si chiariscono le cose e adesso, diciamo, è certo che avremo tre tipologie diverse di questo APE, questo anticipo pensionistico. Cioè ci sarà un'APE volontaria, il lavoratore che per sua libera scelta, perché è stanco e non ha voglia di lavorare fino a 66 anni e 7 mesi, che sceglie di andarsene prima. Allora, in quel caso il costo, perché l'APE è, l'abbiamo detto molte volte, è un prestito, cioè io vado via prima, smetto di lavorare, una banca d'accordo con l'INPS, in accordo con l'INPS mi dà un prestito e poi io quando 3 anni dopo comincio a incassare la pensione, mi tolgono un po' di pensione perché devo ripagare quel prestito, mi tolgono per 20 anni un pezzettino di pensione. Allora, APE volontaria questa. Il costo sembra essere abbastanza impegnativo perché da alcuni calcoli che stiamo facendo noi, che peraltro domani avremo anche sul giornale, sembra di capire che per un'APE volontaria con 3 anni e 7 mesi di anticipo, quindi me ne vado diciamo a 63 anni e non a 66 e 7 mesi, dovrei pagare per 20 anni il 20% della mia pensione, quindi io non so quanti se lo potranno permettere, diciamo è una possibilità, per carità è un'opzione, c'è però poca convenienza, non ci sarà la corsa all'APE, sarà l'APE che non correrà magari. Poi ci sono, veloce ti dico, ci sono, perché questo forse è più interessante, ci sono altre due tipologie di APE, una che viene chiamata sociale, cioè quando il lavoratore quando ha una pensione bassa fino a 1200 euro, i sindacati chiedono un pochino di più, ed è in situazione di oggettiva difficoltà, per esempio un disoccupato di lungo periodo, per esempio ha a casa un figlio disabile, insomma diciamo situazioni particolari. Allora in quel caso il costo della restituzione sarebbe completamente azzerato o quasi. Quindi diciamo qui diventa interessante. Quindi non restituisce? Di fatto non restituisce, grazie a un sistema di detrazioni e sconti fiscali tu non restituirai poi quando percepirai la pensione. E poi c'è una terza APE che è l'APE aziendale, cioè l'APE fatta nei casi in cui l'azienda abbia bisogno di fare dei processi di ristrutturazione aziendale. Allora in questo caso stanno cercando di mettersi d'accordo anche con i sindacati, mi sembra un po' più difficile, però è un tema, perché l'azienda potrebbe in qualche modo contribuire al costo dell'APE a carico del lavoratore. Chiarissimo, Salvatore Chicco Padula, ci ha fatto un quadro molto chiaro, poi vedremo appunto nei prossimi, continuerà questo confronto tra governo e sindacati e vedremo la fase 2, per esempio, la prossima fase è la fase 2 che riguarda in particolare i giovani. Ciao Chicco Padula, buon lavoro. Grazie, buonasera. Ciao. Intanto continuano i vostri messaggi sia sui vaccini sia sul servizio militare dopo questa notizia che riguarda la Svezia che ripristinerà dal 2018 il servizio militare obbligatorio. Per esempio Anselmo dice: tornare alla leva militare obbligatoria è semplicemente rubare il tempo ai giovani e rendere importanti i graduati. Luciano: quando l'ho fatto era una buffonata e comunque ho perso un anno di lavoro, mentre Andrea scrive: creerebbe occupazione. Punti di vista opposti. Piero dice: favorevole, c'è solo un problema, chi lo dice alle mamme? Marco si dice assolutamente favorevole. Poi Giuseppe: visto la noia e l'eccessiva presenza dei genitori nella vita dei ragazzi, un anno di militare non sarebbe una cattiva idea. Mentre Nicola, questo tutto tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, in tutti e due modi potete interagire qui con Effetto Notte. Nicola dice: non esiste nessun legame fra vaccini e autismo, rispetto al passato semplicemente viene riconosciuto l'autismo, non esiste solo un tipo di autismo, tra parentesi dice in più bambini danno la colpa ai vaccini perché l'autismo viene diagnosticato nei primi anni di età e a vaccini già fatti, dice Nicola. Mentre Maria Grazia da Imperia: non capisco perché la medicina ufficiale non voglia accettare gli studi di quanti tra gli stessi medici dimostrano l'esistenza di una correlazione tra vaccini e malattie croniche. In realtà, dice, lo capisco benissimo, ma insomma tra pochissimo ne parleremo con il presidente dell'IS, Istituto Superiore di Sanità, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Molte le notizie di cui abbiamo parlato finora, adesso passeremo a un altro tema, quello dei vaccini, perché c'è questo documentario che doveva essere proiettato al Senato che ha creato molta polemica. E tra l'altro c'è un ascoltatore, voi potete continuare a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Dice questo ascoltatore: Gianni, siate chiari, sarà per sempre la possibilità di anticipare la pensione? Gianni, se ti posso rispondere, soprattutto nel tema delle pensioni, il per sempre non esiste. Cioè ogni governo, ogni ministro, cioè, vedete che sempre c'è qualche riforma delle pensioni, quindi il per sempre lo toglierei definitivamente da questo argomento. Poi invece sulla questione della leva obbligatoria che tornerà in Svezia dal 2018, Riccardo da Roma dice: d'accordissimo, un eventuale ripristino della leva obbligatoria anche in Italia servirebbe a responsabilizzare molti giovani e meno giovani affetti da sindrome di Peter Pan. Ovviamente la leva dovrebbe servire, dice, a preparare le persone in maniera seria dando prospettive concrete. Tra l'altro vedo che arrivano le prime sommergibiliste in Italia, è possibile anche in Italia, da adesso lo ha rivelato proprio il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Walter Girardelli. Però intanto vi ricordo, prima di passare al prossimo tema, quali sono i titoli principali. Pensioni, raggiunto un primo accordo tra governo e sindacati, misure per 6 miliardi dalla 14ª alla no tax area e per i lavoratori disagiati possibile uscita con 41 anni di contributi. Addio a Shimon Peres, l'ex presidente israeliano, Nobel per la pace, si è spento a 93 anni, il mondo gli rende omaggio. Vaccini, si riaccende la polemica per un documentario contro le vaccinazioni, annullata la proiezione prevista in Senato. Marò, la Corte indiana autorizza la Torre a restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato, soddisfatta la Farnesina. Siria, il segretario di Stato americano Kerry minaccia la Russia, stoppa i rapporti con Mosca se non interrompe i bombardamenti. Stati Uniti, l'ONU chiede risarcimenti per i neri uccisi dalla polizia, sono reminiscenza, dice, dei linciaggi di afroamericani del passato. Intanto un altro nero è stato ucciso in California, era disarmato. Migranti, l'Unione Europea chiede all'Italia di accelerare sulla creazione di hotspot. E poi l'omicidio di Yara, nelle motivazioni della sentenza di ergastolo per Bossetti, i giudici scrivono: l'ha uccisa con violenza e sadismo per le avance respinte e il DNA è assolutamente affidabile. Servizio militare, la Svezia ci ripensa, dal 2018 torna la leva obbligatoria soppressa nel 2010, chiamati alle armi i giovani nati dopo il 1999. E per il calcio, dopo la Juventus vittoriosa di ieri, in campo c'è il Napoli che per il momento conduce sul Benfica 1-0. E occupiamoci adesso di questo contestato documentario che si intitola Vaxxed from Cover Up to Catastrophe, un documentario che attacca i vaccini. Sapete che la sicurezza dei vaccini, per lo più quelli che riguardano le vaccinazioni infantili, è particolarmente dibattuta negli ultimi tempi. La gran parte però della comunità scientifica dice che non solo sono assolutamente sicuri, ma anche assolutamente necessari per proteggere i bambini da varie malattie, e c'è chi invece li ritiene pericolosi e li collega all'autismo. Bene, questo contestatissimo film documentario, che in italiano si intitola Vaccini dall'insabbiamento alla catastrofe, arriva in Italia in anteprima europea, un film che vorrebbe dimostrare appunto la tesi che ci sia una relazione tra vaccini e autismo. Ma ciò che ha riacceso ulteriormente questa polemica è il fatto che questa primissima proiezione era prevista, sino a qualche ora fa almeno, in Senato il prossimo 4 ottobre. Organizzarla è stato l'onorevole Bartolomeo Pepe, ex grillino e oggi nel gruppo GAL di Tremonti, che prevedeva anche una diretta streaming durante questa proiezione con il regista, che è Andrew Wakefield. Nel pomeriggio però è scoppiata la polemica, la ministra Lorenzin si è detta indignata, il Senato, appena si è diffusa la notizia, ha detto che non avrebbe dato il proprio patrocinio, poi nel corso delle ore ha annullato, montando la polemica, ha annullato proprio del tutto questa proiezione. E la pellicola, tra l'altro, era stata rifiutata anche negli Stati Uniti dal Festival del Cinema di Robert De Niro. Indignazione espressa anche dall'Istituto Superiore della Sanità. E allora coinvolgo direttamente il professor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera, professore. Buonasera. Quindi riscoppia la polemica, questa volta tra l'altro una cosa particolare in una sede istituzionale. Che cosa bisogna dire ancora su questo argomento? Ma sì, che ci siano ciarlatani, truffatori, gente che insomma dicendo falsità abusa della credulità popolare, questo ci può pure stare, c'è sempre stata, è una triste realtà del mondo. Che però questo venga avallato, addirittura ospitando in un'aula del Senato, questo noi all'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Scientifico all'unanimità ha espresso sconcerto e indignazione. Persino Robert De Niro, che ha un figlio autistico, che quindi ha sulla propria pelle la sofferenza da questa malattia, a un certo punto è stato convinto a non ospitare questo film. Professor Ricciardi, comunque, se lei dovesse rassicurare davvero quei genitori che si fidano della comunità scientifica internazionale che dice che i vaccini sono sicuri e necessari, ma ancora ha, no, da genitori con i figli piccoli, qualche piccola paura, qualche timore, che cosa direbbe per rassicurarli ulteriormente? Che non esiste assolutamente alcun nesso tra le vaccinazioni e l'autismo, che questo è stato smentito ripetutamente da tantissimi studi in tutte le parti del mondo. Quindi che questa paura, che è quella, diciamo, che ogni genitore può avere, certo, diciamo, naturalmente nei confronti dei propri figli, è immotivata, cioè, e che anzi è estremamente pericoloso non vaccinare i propri figli contro malattie come il morbillo, la rosolia, la parossite, che non sono innocue, diciamo, provocano ogni anno centinaia di casi di ospedalizzazione e qualche caso di morte. Quindi che portino ovviamente i propri figli nelle strutture vaccinali, dove verranno adeguatamente informati, diciamo, su quelle che sono le caratteristiche dei vaccini, e che soprattutto, diciamo, diciamo, non credano a questi imbroglioni, ma credano, diciamo, a coloro che in qualche modo hanno studiato e lavorano per il bene dei loro figli. Professor Ricciardi, tra l'altro, proprio grazie a questi vaccini, no, sono state sconfitte moltissime gravi malattie come il vaiolo, però non è un problema solo individuale, perché si deve avere la copertura vaccinale, è un problema che riguarda la collettività, perché la copertura vaccinale raggiunge una certa soglia quando le malattie possono essere debellate, quando tante persone, tanti bambini vengono vaccinati, no? Sì, proprio questa settimana la regione americana, cioè l'America, è la prima regione, diciamo, a essere dichiarata morbillo free, proprio perché hanno fatto dei programmi intensi di vaccinazione, diciamo, a tutti quanti i nuovi nati. Tra l'altro ricordo che il regista Andrew Wakefield è stato radiato dall'ordine dei medici, no? Il regista di questo film documentario. È da lui che veniva questo sospetto della correlazione tra autismo e vaccinazione. Sì, in realtà questo non è un regista, questo è un mascalzone che faceva il medico, che poi imbrogliando, anzi aveva lui conflitti di interesse con le aziende farmaceutiche, è stato radiato dall'ordine dei medici, adesso non fa più il medico, sbarca il lunario proprio negli Stati Uniti d'America, dove peraltro è stato implicato in ulteriori storie piuttosto torbide, e adesso ha trovato con questa sua vena artistica il modo per cercare di fare un po' di soldi a scapito della credulità popolare. La cosa importante è proprio quello, non credere a persone di questo tipo. È chiaro che comunque la polemica non si ferma qui, intanto però grazie professor Walter Ricciardi, ricordo presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, grazie, arrivederci. E arrivano i vostri messaggi ancora su questo argomento. Vaccini, dice un ascoltatore, ma quando le persone capiranno che non basta che una notizia sia letta su internet per essere veritiera? Continuate, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è al 349-238-6666. Un ascoltatore chiede, ma non parlate dell'OPEC ad Algeri? Non so se si riferisce a questa notizia di poco fa. L'OPEC, cioè l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ha raggiunto un accordo per limitare la produzione di petrolio a 32 milioni e mezzo di barili. L'indiscrezione riportata dalla CNN NBC e poi confermata da Bloomberg mette le ali alle quotazioni del greggio a New York, dove arriva a salire al 4,88%, quindi a $46.85 al barile. Non so se questa è la notizia, ma è l'unica che c'è sull'OPEC. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve li ricordo in pochi secondi, a parte anche i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Per esempio Sandro dice, secondo me come si fa per il servizio militare obbligatorio nel caso che torna in Svezia dal 2018? Se è una cosa seria certamente, se è una perdita di tempo meglio evitare. Così laconicamente chiude l'ascoltatore. E vi ricordo, le notizie sono questo primo accordo tra governo e sindacati sulle pensioni, 6 miliardi in 3 anni, prevista la 14ª ai redditi da fino a 1.000 euro, i precoci via con 41 anni di contributi. E poi Renzi che dice sul referendum non bisogna votare contro il governo, c'è questo battibecco con D'Alema, e poi è previsto un vertice Berlusconi, Meloni, Salvini per il no al referendum. Addio a Shimon Peres, l'ex presidente israeliano, il falco che diventò colomba dai kibbutz ai controversi accordi di Oslo, divenne l'icona del paese, si è spento a 93 anni. Il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, che bacchetta la Germania, che dice col quantitative easing avete risparmiato, dice la Germania, 28 miliardi. E poi il film antivaccini in Senato, di cui abbiamo appena parlato, l'indignazione blocca l'iniziativa, la proiezione era prevista in Senato per il 4 ottobre, appunto, ed è stata annullata. Marò, la Corte indiana autorizza la Torre a restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato. E poi c'è il Napoli in Champions contro il Benfica, per il momento conduce sempre 1-0. Europa 24 notte. Parliamo di Europa ed evasione fiscale. Entro la fine del 2017 Bruxelles, con l'aiuto degli stati membri dell'Unione, stilerà la lista dei paesi ritenuti non cooperativi a livello fiscale, una sorta di blacklist, di lista nera, che sarà valida per tutta l'Europa con l'obiettivo appunto di combattere l'evasione. Sarà pronta entro la fine del prossimo anno e conterrà i nomi di quei paesi ritenuti non cooperativi a livello fiscale. E in arrivo una sorta di blacklist europea, valida quindi per tutta Europa, con l'obiettivo di combattere l'evasione. Chi sarà inserito nell'elenco sarà soggetto a sanzioni. Al momento Bruxelles ha stilato una prima lista, ma siamo solo all'inizio, ci racconta l'europarlamentare Roberto Gualtieri. Il 14 settembre la Commissione ha pubblicato i documenti del primo step, cosiddetto scoreboard, che sulla base di una serie di indicatori definisce i parametri di tutti i paesi ex europei. E sulla base di questo scoreboard si dovrà fare il secondo passaggio, si fa uno screening e si selezionano i paesi che meriterebbero di entrare in questa blacklist, e poi l'ultimo passaggio, il cosiddetto listing, sarebbe la definizione della blacklist vera e propria, e quindi avremo alla fine, entro il 2017, questo è l'impegno, una lista di paesi che sulla base di una serie di indicatori sono ritenuti non cooperativi e quindi sono invitati a modificare le loro normative, altrimenti subirebbero delle sanzioni, cioè una serie di, diciamo così, comune vincoli o limiti amministrativi alla cooperazione con essi, al commercio, eccetera. La valutazione dei singoli paesi non si basa solo sul livello di tassazione, vi sono degli indicatori di rischio, livello di trasparenza e scambio di informazioni, esistenza di regimi fiscali preferenziali o del vero e proprio status di paradiso fiscale con aliquote zero su imprese e redditi. Questi dati vengono poi incrociati con altri parametri, i legami economici con l'Unione, la dimensione dell'attività finanziaria e così via. Alla fine si arriverà a un elenco condiviso da tutti i paesi europei. Questo è il vero valore aggiunto, ci spiega l'avvocato Stefano Loconte, fondatore dell'omonimo studio legale. Oggi la valutazione se un qualsiasi Stato possa essere considerato meno blacklist è fatta da ogni singolo Stato e quindi sono valutazioni relative. Un paese che è blacklist per l'Italia potrebbe non esserlo per la Francia, potrebbe non esserlo per la Germania e così via. Questo va a creare delle asimmetrie all'interno del quale l'elusore barra evasore può provare ad infilarsi. Quindi il lavoro che sta facendo l'Unione Europea è un lavoro importantissimo perché mira alla omogeneizzazione della valutazione dei paesi come blacklist e quindi il paese blacklist sarà tale per tutti i paesi dell'Unione Europea. Cosa succede se un paese viene classificato blacklist? Parlo per l'Italia. I termini di accertamento sono molto più ampi, addirittura sono raddoppiati, le sanzioni sono raddoppiate, quindi il detenere dei capitali, degli attivi in paesi blacklist comporta degli oneri molto molto maggiori. La blacklist europea si aggiungerà a quella dell'OCSE, all'elenco dei paesi ad alto rischio e fini antiriciclaggio e alle liste nazionali, redatte cioè dai singoli stati, Italia compresa. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso invece, in collaborazione con Dario Ricci, capiamo se il Napoli prosegue in vantaggio sul Benfica in Champions. Dario? Eh sì, in fondo poi del resto sempre d'Europa parliamo, ma parliamo certo dell'Europa del pallone, cara Roberta. Sì, Napoli sempre in vantaggio sul Benfica per 1-0 quando siamo al 50esimo al San Paolo, la rete di Hamsik con un colpo di testa sul calcio d'angolo di Goulam al 19esimo, secondo tempo che è iniziato con qualche istante di ritardo perché si è dovuto mettere a posto una porta dello Stadio San Paolo. Da segnalare anche che il Napoli nel primo tempo ha perso per infortunio Albiol, sostituito da Maksimović al suo esordio stagionale con la maglia degli azzurri, il giocatore serbo che arriva dal Torino. Sempre nel gruppo del Napoli, da sottolineare anche il vantaggio del Beşiktaş 1-0 sulla Dinamo Kiev. Dario, ho sentito che sono saltati anche i mondiali di rugby, non so, in qualche modo sono collegati a... Sì, l'Italia, la Federrugby ha annunciato il ritiro della candidatura azzurra. Questo sì, dalla candidatura, sì. Esattamente, dalla corsa ai mondiali, alla Coppa del Mondo di Rugby del 2023, la Federrugby ha sottolineato in un comunicato ufficiale quanto questa candidatura fosse legata alla candidatura olimpica di Roma 2024 e quindi, caduta la prima, anche la seconda è venuta meno. Vero pure che a decidere chiaramente sono enti e realtà diverse, ma che nel mondo del rugby avevamo dei competitor assolutamente di primissimo livello, basti pensare anche al Giappone. Per cui sì, è vero che c'è questa connessione, Roberta, però probabilmente anche la candidatura italiana era un po' debole. Ci si è resi conto che gli avversari avevano delle migliori carte a partire dalla tradizione da giocare. Grazie Dario Ricci, lo abbiamo detto. Grazie. Napoli 1, Benfica 0 per ora. Confermo. Confermi il risultato temporaneo, diciamo, della partita di Champions. Intanto i vostri messaggi continuano, però noi ci dobbiamo lasciare qui intorno giusto per gli aggiornamenti alle 22.